America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Summertime, Summertime di George Gershwin, grandissimo classico americano dedicato all'estate. Ieri abbiamo parlato di estate, dell'avvio della stagione estiva, abbiamo parlato anche della giornata dedicata ai caduti americani in tutte le guerre. È stata quella di ieri una giornata di vacanza e dunque oggi vorrei tornare in argomento e parlare di estate. Estate vuol dire anche turismo e dunque oggi vorrei parlarvi magari del turismo a New York, di quello che si fa da turisti, ristoranti, musei, locali, visite per strada, e ho deciso di farlo attraverso gli occhi di qualcuno che ci viene da turista ma che ci ha vissuto per alcuni anni. E quindi ho qui con me ai microfoni di America 24 Guido Barenson, con cui ho fatto già una trasmissione, alcuni di voi l'avranno sentita, in cui andavamo a ripercorrere un'avventura giornalistica che abbiamo seguito insieme nella notte in cui fu ucciso John Lennon. E quindi Guido era a New York come corrispondente di Repubblica, poi c'è tornato come inviato, insomma ha conosciuto e ha vissuto la città a fondo. Adesso Guido è qui di passaggio come turista. Guido, buongiorno intanto. È sempre una gioia trovarti qua, caro Mario. Eccoci, caro Guido. Dunque, che effetto ti fa quando vieni a New York da turista, se pensi a quando eri a New York da cittadino newyorkese? Ma l'effetto è sempre affascinante perché il cambiamento è costante, cambiano le strade, cambiano i palazzi, quindi è sempre una fonte di ispirazione, anche di un confronto abbastanza frustrante con quello che succede a casa. Una delle cose che ti colpisce di più è la quantità di gente per le strade, la quantità di gente nei negozi e un'atmosfera di serenità. Tutti quei problemi che ti ricordi ci presentava New York qualche decina d'anni fa sembrano apparentemente spariti. Nessuno parla più della sicurezza, tutti dicono che questa è una città che è diventata molto sicura. Ecco Guido, tu arrivando a New York immagino una delle destinazioni sia quella di andare a visitare dei musei, come li trovi? A costo di ripetermi, il primo dato è quello della folla, cioè tu vai nei musei e fai delle code che non trovi nei musei, nei grandi musei romani non ci sono. Devi andare probabilmente agli Uffizi per trovare delle code di mezz'ora, un'ora prima di entrare. Qua, dovunque tu vada, che sia il Guggenheim, che sia il MoMA, lo stesso Metropolitan, devi aspettare in un clima, e forse questa è la cosa più bella, in un clima di grandissima serenità con scolaresche, allegre, sorridenti, ma educate, che si avviano a studiare la storia, spesso la nostra storia. Poi Guido è anche un critico culinario e quindi New York è anche meta così di buon gustai, vero Guido? La crisi sta facendo soffrire la fascia, diciamo, i ristoranti della parte mediana della categoria, mentre il top dell'alta ristorazione soffre ma tiene bene botta, si avvantaggiano di questa crisi sostanzialmente i ristoranti di fascia bassa, le pizzerie, i posti dove vai e spendi 40 euro, l'equivalente di 40 o 50 dollari qua. La cosa che ti colpisce a New York è la coesistenza serena e pacifica di ristoranti di elevata qualità, ma anche di ristoranti a prezzi popolari e abbordabili. Io ho una tesi, e cioè che a New York si mangia la migliore cucina di qualunque angolo del mondo. Ecco, molto spesso vengo bacchettato, qualche volta su Twitter ci sono dei piccoli dibattiti, io magari mi lancio nel descrivere un piatto straordinario di spaghetti fatto da un cuoco americano e con orrore mi dicono: ma come, un cuoco americano non potrà mai cucinare gli spaghetti bene? È una tesi assolutamente a parte il fatto che tu sei, quello che i tuoi ascoltatori forse non sanno è che tu sei un eccellente cuoco e quindi parli con una cognizione di causa, ma è una tesi molto provinciale quella secondo la quale in America o a Londra, nelle grandi capitali del mondo, non ci sia un'eccellente cucina italiana. Sarebbe come se noi volessimo dimenticarci del fatto che, ad esempio, in moltissimi posti, in moltissimi ristoranti italiani, la pizza non viene più fatta da italiani, viene fatta da egiziani. Tu entri nelle cucine di tanti ristoranti importanti del nostro paese e trovi un piccolo melting pot. C'è sempre un giapponese che magari è venuto lì per 3 mesi, si è innamorato, è rimasto 2 anni, 3 anni, si è sposato una ragazza italiana. Toscana ci sono moltissimi arabi, c'è un sacco di gente che viene, che impara e che diventa padrona della nostra cucina. Certo, io se vengo qua per una settimana non vado, non sono attirato particolarmente da un ristorante italiano. Qui ci sono, come dicevi tu prima, dei ottimi ristoranti italiani. C'è anche la tendenza a presentare la cucina mediterranea, no? Ci sono alcuni posti, a proposito di pasta, c'è quel posto di cui mi hanno parlato diversi amici che si chiama Marea, dove mi dicono che fanno un eccellente piatto di spaghetti alla chitarra con ricci di mare e gamberi. Perché non dovrebbero farlo qua, insomma? Le materie prime sono buone, i ricci di mare. E il cuoco, tu hai menzionato Marea, ricordiamolo, Marea in effetti è un ristorante straordinario che fa cucina mediterranea, il cuoco è americano, perché sì, si chiama White. Appunto. Ecco Guido, tu avrai fatto perlustrazione culinaria, immagino, vista la tua passione, la tua professione. Racconta ai nostri ascoltatori un'esperienza inusuale. Cioè, un'esperienza certamente inusuale in un posto centralissimo, che è Grand Central Station, dove da sempre c'è un oyster bar famosissimo per gli americani, ma che molti stranieri non conoscono. Beh, insomma, tutti infili in questa gigantesca, antica, fascinosissima stazione, con un soffitto coperto da un cielo stellato con tutti i segni dei pianeti dell'astrologia. Scendi sottoterra, ti immergi nell'universo della stazione e prima di arrivare ai binari invece trovi questo incredibile posto dove, ecco, puoi bere grandi cocktail, no? Ecco, oyster bar, che cos'è? Ostriche. Perché diciamo, ecco, ostriche, perché l'oyster bar è il bar cosiddetto delle ostriche. Cioè il bar è il bancone, e oyster bar vuol dire che c'è questo bancone dove ci sta un signore con una specie di coltellaccio fatto apposta che apre le ostriche in continuazione fresche, le mettono lì. Certo, fanno questo, anche... ma non è solo questo, perché poi quando entri tanto senti l'odore del mare, senti delle ostriche e poi senti e vedi che ci sono delle incredibili, immagino antiche, macchine, delle zuppiere fisse dove vengono passate le ostriche nell'acqua bollente e fanno una zuppa d'ostrica pazzesca. Un altro posto, New York, fuori New York? Beh, c'è un posto che ha due sedi, una è a Washington Place, l'altra è in campagna, Upper State New York. Il ristorante è Blue Hill, si chiama, ed è gestito da quello che viene considerato uno dei più geniali cuochi dell'ultima generazione americana, che si chiama Dan Barber. Viaggio nella cucina americana. Io ho trovato abbastanza divertente, come abbastanza interessante come esperienza, perché intanto vai fuori da New York e per un'ora cammini in questa bellissima campagna. Immaginatevi una vecchia fattoria americana svuotata all'interno del granaio e delle vecchie installazioni, tavoli molto semplici, un decor molto semplice e un servizio da grande ristorante, con la pretesa, e sottolineo la pretesa in maniera anche un po' ironica, di volerti fare provare l'essenza della cucina, quella che qua si chiama organica, in italiano si chiama biologica, cioè delle materie prime coltivate con grandissima attenzione. Per noi è una pratica ordinaria, invece qua, cioè, giustamente essendo la gran parte della popolazione lontana dal cibo fresco, effettivamente questa rappresenta una esperienza molto divertente, molto interessante. Raccontaci di una serata, Guido. Beh, la serata, sempre per rimanere nel cuore di Manhattan, certamente una serata divertentissima nel posto che ha preso Cipriani alla 42esima, dove credo che si aprano soprattutto per dei banchetti, per delle grandi feste, una cucina davvero buona. La cosa più divertente è il decor, perché questa è una gigantesco salone che è appartenuto per, immagino, decine e decine d'anni ad una banca, e così siamo passati felicemente dalla finanza alla pappa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, estate. Abbiamo parlato di estate, di turismo, dunque, credo che non potevo che farvi ascoltare Summertime dei Mango Jerry, canzone degli anni 70, arrivata numero uno nella classifica americana. Mango Jerry, In the Summertime. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!